semplicemente, semplicemente. Eh sì, semplicemente insieme, semplicemente. Eccomi qua, buon pomeriggio e bentrovati. Siete naturalmente rigorosamente in diretta su CRM, naturalmente in compagnia di Jerry. Buon lunedì a tutti. Allora, come è stata a riprendere questa nuova settimana? Beh, spero bene, vi siete rilassati durante il weekend? Eh sì, dai, pazienza, tra un po' arriverà un altro weekend e ci rilasseremo, così pronti, ci ricaricheremo per cominciare continuamente un'altra settimana. Allora, intanto vi ricordo subito i numeri per le vostre richieste: il 335-5637-251 e ancora lo 0921-923292. Potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmhappyradio.it oppure su Facebook. Anche oggi, mamma mia, giornata fredda, devo dire, questo freddo proprio non ci vuole abbandonare. Ma dico, ma quando arriva questa bella estate, questa benedetta estate, così si fa tutti al mare, ci si abbronza, ci si rilassa? Ci siamo quasi, dai, siamo già a febbraio, a metà febbraio, quindi tra un pochino ci siamo. E allora, io pronta per cominciare, che ne dite, cominciamo? Sì, con una bella, bella, bella canzone. E allora andiamo! Oh, my people on the floor, for your light, don't want some more. Oh, abbiamo cominciato bene, no? Così ci riscaldiamo visto il freddo che c'è. E noi continuiamo con la bella musica, naturalmente sempre qui in diretta, all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia di Jerry. Se penso a come sono stato male, davvero un dolore bestiale, un vuoto da era glaciale che rimuove, che non si può raccontare. Invece adesso, cazzo che bello, scopro che poteva andar peggio. Riesco ad essere contento anche se non trovo parcheggio. L'orologio fa tic tac e mi sembra un pezzo hip hop. In ritardo sì lo so, sono in ritardo ma però che bello, strappassi le uova, profumo come una macchina nuova, mi accorgo che qualcosa è cambiato, anche se non sono migliorato. La moto che adesso va in moto, il karma si dà delle arie, sento salire forte le difese immunitarie. Trovar per caso una risposta che non cercavi più, magari è una domanda che non avevi fatto tu. Cazzo che bello l'amore, che nasce da una banalissima combinazione, che ti toglie da una bruttissima situazione, da una frase che hai detto te, che mi ha spezzato il cuore, che nasce da una casualissima combinazione. C'è Luca Carboni, sì, poi tra l'altro ci avviciniamo anche a San Valentino, quindi voglio dire proprio ci sta a pennello questa canzone. A proposito di Luca Carboni, diciamo che lancia in anteprima nello speciale musica di Video Mediaset il nuovo video Per tutto il tempo. I disegni che compaiono sono stati creati dal cantautore stesso e dice un video molto speciale per me, in cui si sposano disegni e immagini. Ho voluto catturare con semplice disegno vari aspetti della figura femminile, a tratti con dolcezza e romanticismo, a tratti con ironia su straordinarie immagini. Le immagini sono state girate nei suoi viaggi da un suo amico fotografo siciliano e l'idea quindi nasce proprio vedendo alcune foto ed immagini di questo suo amico, immagini immaginandole come ideale scenario del racconto della canzone, infatti Per tutto il tempo, per il senso di infinito e di eterno che emanano. Bene, bene, quindi saremo curiosi di vedere questo video in anteprima per questa canzone Per tutto il tempo. E noi continuiamo sempre con la bella musica, facciamo un passo indietro, andiamo a ricordare una voce straordinaria che purtroppo non c'è più, è scomparsa l'altro ieri, credo ieri, la straordinaria voce di Whitney Houston, e noi qui a CRM la ricordiamo e l'ascoltiamo in questa sua bellissima canzone I Wanna Dance With Somebody. With Somebody. A proposito di Whitney Houston, come vi dicevo poco fa, la cantante americana è stata trovata morta ieri in un hotel di Beverly Hills, dove si trovava proprio alla vigilia della cerimonia dei Grammy Awards, l'Oscar della musica, che vi ricordo che nel 1996, a soli 23 anni, l'aveva consacrata come la nuova regina del soul pop mondiale. A dare per primo l'allarme è stato il compagno della cantante, Ray J. Si conclude purtroppo così tragicamente la storia di questa, di una grandissima artista che per anni è stata ai vertici delle classifiche, amata e venerata da milioni di fan, e poi passata in pochi anni dal paradiso del successo all'inferno della droga e della depressione. La cosa che più di tutte l'ha fatta soffrire, sicuramente che l'ha buttata anche nella depressione, è stata il fallimento del suo matrimonio. Per anni è stata la stella, la ragazza d'oro dell'industria discografica, e assieme a un altro grande come Michael Jackson detiene il record dell'artista di colore di maggior successo. Si calcola che nella sua breve ma intensissima carriera abbia venduto circa 190 milioni di dischi. Raggiunse anche una grandissima popolarità sul grande schermo nel film The Bodyguard, al fianco di Kevin Costner, con la colonna sonora che sicuramente vi ricordate, I Will Always Love You, che ha venduto 45 milioni di copie, devo dire, un grande, grande successo. Con la musica e il suo sex appeal ha influenzato una generazione di giovani cantanti come Christina Aguilera e Mariah Carey. Noi comunque ci ricorderemo comunque sempre di questa straordinaria artista, questa fantastica voce, naturalmente con le sue canzoni. E noi comunque adesso continuiamo ad andare avanti, andiamo avanti con sempre con la bella musica di CRM. E adesso una bella canzone di Zucchero, Sugar. Ci vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing. Quando il sole va, il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funky. Quando il sole no, no. Oh yeah. Solid fire. tornata in studio, naturalmente ricordo per chi si fosse messo solo all'ascolto in questo momento, siete sempre in diretta su CRM Più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry, e noi continuiamo sempre con la bella musica. Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più, ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai, dove cammini tu? Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Ne ho perso certe occasioni, sai, che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare senza pretendere. Che conta, l'amore conta sempre. Beh, sapete che domani naturalmente è San Valentino, quindi la festa degli innamorati, quindi ci si prepara, ci si organizza con qualche cenetta romantica, che ne so. E beh, poi giorno 15 naturalmente poi sarà la festa dei single, quindi San Faustino. Sapete invece che cosa si festeggia oggi? Beh, lo volete proprio sapere? Ve lo dico subito, si festeggia il Mistress Day, praticamente è la giornata dedicata agli amanti, sì sì, proprio così, specie a quelli un po' fedifraghi. Non per niente la data proprio è scelta per precedere di poco quella del santo, che sponsorizza quindi gli innamorati ufficiali, senza accavallarsi ad essa e non creare questione di incompatibilità. Diciamo che questa tendenza arriva dalla grande mail da New York, e vista la rapidità con cui le mode di oltreoceano attecchiscono anche da noi, c'è da scommettere che prenderà piede in fretta. Infatti nella grande mela per il giorno precedente a San Valentino si registra un numero altissimo di ordini dai fiorai, così come di prenotazioni nei ristoranti, spiega Alex Baccari, country manager italiano di Ashley Madison, il portale web di incontri extraconiugali, che ha realizzato un sondaggio in proposito. Organizzare due feste consecutive per l'amante e per il partner, diciamo che richiede, oltre a una buona dose di fantasia, un pizzico di furbizia in più, e gli italiani sicuramente non saranno da meno dei newyorkesi. Beh, sicuramente, mazza però che fatica, voglio dire, organizzare due feste, il giorno prima quella degli amanti, poi quella degli innamorati, Dai, un po' stressante, ma non conviene solo organizzarne una? Cioè, una sola, quella degli innamorati con il vostro compagno, la vostra compagna. E basta, eh. E fate bravi, come dico sempre, mi raccomando. E noi cosa facciamo? Beh, noi continuiamo sempre con la bella musica, naturalmente, qui in diretta su CRM Happy Radio, sempre in compagnia di Jerry. Passerà, è come aria passa.

everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Questa canzone saluto Marisa che in questo momento mi sta ascoltando. Vi ricordo un appuntamento che a partire da questa sera alle ore 20 CRM trasmetterà naturalmente in diretta il consiglio comunale, in diretta quindi audio e video sul sito www.crmperadio.it oppure su in radio sui 101.4. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, biglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca, Don Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa. Foresta non è soltanto un segno di protesta, ma è un rifugio per i insetti, un nido per gli uccelli che si amano tranquilli. Tra i miei pensieri e il cielo sono la parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme. Non sono venuto in motocicletta, non mi sono pettinato con le pompe a mano, non ho messo le dita dentro la spina, non mi sono lavato con la candeggina. Sono uno di quelli che porta i suoi lunghi capelli per scelta e non usa trucchi, e voi levatevi la parrucca. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Nel mondo vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, oh, oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Nel mondo vivo sempre insieme. senza gioielli, sei una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, piglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca, Don Giovanni senza una pesca, tu senza me, un uccello senza aria. Senza re, uno scettro senza re. Ma quando perdo il senso e non mi sento niente, io chiedo ai miei capelli di darmi la conferma che esisto e rappresento qualcosa per gli altri di unico vivo, vero e sincero, malgrado questa pietosa impennata di orgoglio che ho dentro. Il giorno che vivo di essere un uomo, non un cespuglio. Se Niccolò Fabi non può vivere, vive sempre insieme ai suoi capelli, beh, c'è qualcuno che, poveraccio, un po' ha dei problemi così, diciamo, di calvizie, no? No, quindi non ha tantissimi capelli. Beh, se volete risolvere questo problemino, beh, andiamo tutti in Spagna, perché a quanto pare in Spagna impazza una nuova moda, no? Che sembra non risparmiare nessuno, lavare i capelli, pensate un po', con uno shampoo per cavalli per combattere appunto le calvizie. Del resto, in effetti, avete mai visto un cavallo spelacchiato o senza una rigogliosa criniera? Deve essere stato questo il pensiero che ha fatto scoppiare la nuova mania tutta spagnola per il famosissimo shampoo de cavallo. Il passaggio dalle stalle alle docce è avvenuto in un attimo. La febbre dello shampoo per cavalli, infatti, ha colpito tutto, perfino il quotidiano El Mundo, che gli ha dedicato un intero servizio. Diciamo che fino allo scorso novembre lo shampoo equino poteva essere acquistato solo con la prescrizione di un veterinario e quindi molti uomini spagnoli lo compravano e utilizzavano clandestinamente. Ora invece, a quanto pare, anche la legge è dalla parte dello shampoo de cavallo, perché è stata formulata una sua versione per uso umano disponibile nei migliori supermercati. Quindi si può dire addio alle calvizie, quindi grazie a questo shampoo per cavalli. Beh, sembra proprio di sì, visto che l'entusiasmo degli uomini spagnoli quindi non resta che aspettare. Quindi uno shampoo equino per chi ha problemi di calvizie. Quante cose strane che arrivano dal mondo, mamma. E noi continuiamo sempre con la bella musica, naturalmente sempre qui in diretta. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was see it, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing. Somewhere out. ancora per qualche mezz'oretta sarete in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Volevo ricordarvi che sono ancora aperte le iscrizioni fino al 18 febbraio per il secondo corso di formazione radiofonica organizzato naturalmente da CRMP Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Quindi se siete interessati spedite, mandate i vostri curriculum a formazione@libero.it. Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo, sai. Ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale. Se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica. Potresti essere tu. per sperare. Aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania. Voglio averti mia, solamente mia. Ora che non ho più via d'uscita, ora che ogni porta è stata chiusa, apri almeno le tue gambe verso me. Prima o dopo i pasti, non importa, due, tre volte al giorno sì mi bastano per volare. Aiutami a guarire da Mania. E su questa canzone saluto Luigi che ci sta ascoltando, e noi continuiamo ancora sempre con la bella musica. Pésame, pésame mucho, como se fosse stanotte la ultima vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Pésame, pésame mucho. Sempre chanson de outra fois, je la chante pour toi. Pésame, pésame mucho. Que tengo miedo perderte, te voglio comer. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal. tal vez mañana yo ya de estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. I love you forever, make all of my dreams come true. Besame, besame mucho, mucho, mucho. Eh sì, vi ricordo, insomma, domani sarà la festa degli innamorati, quindi ci si bacerà tantissimo. E c'è una bella notizia, appunto per chi si vuole bene, che arriva giusto in tempo per questa tanto attesa festa degli innamorati. Baciarsi allunga la vita, specie se lo si fa al momento giusto, ovvero di primo mattino. Secondo lo studio tedesco, gli uomini che hanno l'abitudine di baciare la moglie prima di andare al lavoro vivono in media 5 anni in più. Ma, insomma, baciarsi spesso e volentieri aiuta la salute delle persone e del rapporto amoroso. E per chi vuole essere perfezionista a tutti i costi, c'è anche una tecnica scientifica che rende perfetto il bacio, sia al rossetto e alla scelta del momento perfetto, no all'uso di alcol e alle pressioni sul partner, specie se il bacio in questione è il primo che ci si scambia con un nuovo compagno. Come spiega Sherilyn Kirschenbaum, ricercatrice dell'Università del Texas, la prima regola per un bacio da 10 lodi è aspettare, dice, il momento giusto. Creare un legame prima dell'incontro delle labbra aumenta i livelli di ossitocina, l'ormone dell'amore. Questo incoraggia il senso di attaccamento reciproco. Per agevolare la cascata ormonale generata dal bacio, continua la ricercatrice, e da evitare l'alcol che interferisce con dopamina, serotonina e appunto ossitocina. Bene invece l'uso del rossetto per la donna, perché gli uomini sono infatti attirati dalle labbra rosse e piene, perché in natura indica un elevato livello di estrogeno, indice appunto di fertilità. L'esperta invita anche a non sottovalutare il gesto. Un bacio stimola un cocktail di ormoni e di neurotrasmettitori in tutto il corpo. Il cervello, spiega, dà più informazioni delle parole e della cartina alla tornasole della natura per capire se proseguire una relazione o se interromperla perché siamo incompatibili con il partner. Bene, bene, questa notizia proprio ci voleva. Quindi baciatevi, baciamoci tanto. Poi domani, a maggior ragione, la festa degli innamorati, quindi tanti baci, baci, baci. E noi andiamo avanti ancora per un altro quarto d'ora, naturalmente sempre all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia di Jerry. Cade la neve ed io non capisco che sento davvero. Mi arrendo, ogni riferimento è andato via. Spariti marciapiedi e le case e colline. Sembrava bello ieri ed io sepolto da un suo bianco. Mi specchio, non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso è quello che sento. E ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scioglie mai neanche se deve. Cose che spesso si dicono improvvisando. Se mi innamorassi davvero saresti solo tu. L'ultima notte al mondo io la passerei con te, mentre felice piango e solo io. Posso capire al mondo quanto è inutile odiarsi nel profondo. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento. E ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve.

questa era l'ultima canzone in programma per oggi. Noi però non vi preoccupate, ci risentiremo mercoledì sempre a partire dalle 15 sino alle 17. Adesso lascio i microfoni al nostro e al vostro Rocky D'Antoni, così soprannominato da me, che è già pronto per tenervi compagnia sino alle 19. Non mi resta che augurarvi una felice serata, un buon San Valentino.